Europa 24. In primo piano l'emergenza terrorismo, l'Europa cerca una strategia comune per fronteggiare il pericolo. C'è evidente nervosismo qui a Bruxelles sulle conseguenze che gli attacchi terroristici di Parigi avranno sulla politica europea. Indurranno i paesi a maggiore integrazione o piuttosto i 28 saranno tentati sempre più dalla via nazionale? Domani si terrà un consiglio straordinario che riunirà i ministri degli interni. Secondo le prime informazioni raccolte qui a Bruxelles, i 28 annunceranno, tra le altre cose, controlli a tappeto alle frontiere esterne dell'Unione, anche per i cittadini europei che beneficiano della libera circolazione in Europa. Nel contempo, i 28 vogliono rafforzare la cooperazione nell'antiterrorismo e chiedere alla Commissione europea di presentare nuove iniziative per facilitare la collaborazione nell'intelligence finanziaria. Il timore di molti osservatori è che i paesi membri di Schengen decidano di introdurre il controllo alle frontiere, seppur in via temporanea. Sarebbe un duro colpo alla libera circolazione delle merci e delle persone, con un impatto negativo anche economico. D'altro canto, proprio oggi nel Parlamento europeo, Rob Wainwright, il direttore dell'Europol, ha avvertito che nuovi attacchi terroristici sono probabili. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E in Europa si discute anche della possibilità di lasciare fuori dal patto di stabilità le spese per contrastare il terrorismo. Ad annunciare la flessibilità per le spese contro il terrorismo è stato lo stesso Juncker, che ha parlato di ISIS come il nemico numero uno e di atti di guerra, riferendosi a quanto l'Europa ha vissuto in questi giorni. La Francia, ha detto il presidente della Commissione europea, deve affrontare gravi atti di terrorismo e deve affrontare spese supplementari, che non possono avere lo stesso trattamento delle altre spese rispetto al patto di stabilità, un principio che dovrà valere anche per gli altri stati. La spesa aggiuntiva preannunciata dal Presidente della Repubblica francese, 5.000 assunzioni tra gendarmi e polizia, oltre a un congelamento dei tagli all'esercito previsti, comporterà uno slittamento del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del deficit sotto il 3% entro il 2017. Giovanni Lavia, eurodeputato del PPE. È il primo passo di un lungo processo che dovremo fare per avere una difesa comune e una politica estera comune. Quelli sono gli obiettivi. Per arrivarci dobbiamo passare anche da passi come quello di socializzare con delle clausole di flessibilità la spesa addizionale legata alla lotta antiterrorismo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione europea assieme a Repubblica Ceca, Estonia, Portogallo e Slovenia per non aver recepito correttamente la normativa europea che prevedeva l'adesione alla rete europea delle patenti di guida. Questa rete può aiutare gli Stati membri a cooperare fra loro e garantire che le patenti siano rilasciate in conformità alla normativa comunitaria. Lo scambio di informazioni avrebbe dovuto iniziare il 19 gennaio 2013. È tutto per Europa 24, un saluto da Maria Piera Ceci. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.